avanti. Allora, di nuovo, va bene, grazie, bene trovarvi questa sera. Siamo qua perché si avvicina un momento un po' importante, uno snodo riguardo alla vicenda della vicenda che parte dall'11 febbraio dell'anno scorso e che coinvolge a nostra conoscenza al momento dei compagni italiani e tedeschi, due compagni italiani e due compagni tedeschi, però c'è contezza del fatto che le persone che sono in qualche modo imputate o coinvolte, o si suppone che possano essere coinvolte in questa faccenda, siano di più. Quindi siamo in un momento in cui le carte non sono ancora proprio del tutto chiare, è importante perché il giorno 16, diciamo così, il giorno 11, quindi qualche giorno fa, era la data ultima per l'Ungheria per rispondere alle domande che il Tribunale italiano le aveva posto in modo da poter decidere sull'estradizione di Gabriele, che in questo momento è a Milano ai domiciliari, agli arresti domiciliari, sotto un mandato di arresto europeo. E il giorno 29 inizierà il processo invece in Ungheria, in cui è detenuta attualmente Ilaria e Tobia. E quindi diciamo un momento, volevamo in qualche modo fare un momento di aggiornamento, ecco, fare un pochino il punto su questa cosa che ha occupato ultimamente, e io devo dire per me fortunatamente, molto le pagine dei giornali, e quindi è diventata una notizia nota e in qualche modo molto bene conosciuta. Una questione che potrebbe diventare una questione di diritto internazionale, piuttosto che una questione anche dei rapporti internazionali tra i paesi d'Europa, cosa che invece non succede, diciamo, avrebbe tutti gli elementi, le caratteristiche per poterlo fare. Una questione che riguarda e ci insegna come i limiti e i confini non solo degli apparati di polizia ma della giurisprudenza si espandono sul territorio europeo intero, e quindi di conseguenza di come anche l'istituzione carceraria diventa l'istituzione carceraria europea, no? E questo per noi vuol dire confrontarci, cosa che uno avrebbe potuto fare anche altrimenti prima, ma confrontarci più direttamente con quello che è il sistema carcerario ungherese, per esempio, di cui forse probabilmente qualcuno parlerà dopo. Va bene, io non voglio dire altro. Questa serata è stata promossa dal Centro Sociale Conchetta, dalla Calusca e dall'Archivio Moroni e dall'Assemblea Allargata a Sostegno per i Fatti di Budapest. Allora, adesso magari qualcuno viene a raccontare un attimo cos'è questa assemblea. Va bene, eccoci qua. Sì, questa assemblea è un'assemblea che si è creata all'indomani dell'arresto di Gabriele e che si sta incontrando quindi da fine novembre, e è un'assemblea formata da tante individualità e diversi gruppi che insieme hanno deciso, dopo tanti mesi di silenzio, insomma, o almeno di tentativi di parlare di questa faccenda di Budapest, diciamo che appunto l'arresto di Gabriele è riuscito un po' a bucare questo silenzio e a darci un po', cioè, nella sfortuna e nell'evento avverso, insomma, un po' la forza di dirci ok, adesso ci incontriamo e ci seguiamo bene questa faccenda perché sta diventando grande. E quindi appunto da lì abbiamo cominciato a vederci in tutte queste settimane e appunto ci siamo seguiti tutti i processi, ci sono state già diverse udienze, il processo di estradizione è già iniziato e martedì tra l'altro ci sarà una nuova udienza. Ad ogni udienza abbiamo chiamato un presidio fuori dal tribunale e anche questo martedì ci sarà, che adesso ricordatemi a che ora è? Alle 12.30 di fronte al Tribunale di Milano e niente, noi appunto ci saremo comunque come ogni volta davanti al Tribunale mentre discuteranno di questa estradizione, di cui poi parleremo anche un po' meglio di come sta andando. Questo mese infatti è un mese abbastanza centrale, adesso per fortuna ne si è parlato tramite anche la campagna mediatica che ha cominciato il padre di Ilaria insieme anche con gli avvocati, e è un momento cruciale un po' perché si sta svolgendo questo processo di estradizione, ma anche perché inizierà a fine gennaio il processo a Budapest per Ilaria, Tobias e quest'altra ragazza imputata in Germania, e quindi insomma si comincerà ad intravedere come andrà avanti questa storia. E quindi appunto noi adesso volevamo anche, dopo parleranno gli avvocati. Sì. Scusa, aggiungo sì. Una cosa piccola, sì. Che tutta questa operazione, come abbiamo detto prima di questo aperitivo, ha un costo molto alto. Sì. Tutte le vicende giudiziarie hanno dei costi, in questo caso i costi sono molto alti, perché l'aspetto internazionale aumenta a dismisura qualunque passaggio di carte che deve essere certificato, tradotto, timbrato dal traduttore, i costi degli avvocati di là, i viaggi avanti e indietro. Quindi questa assemblea si fa anche carico di raccogliere fondi, contributi. Sì, sì, sì, sì. Per gestire queste... Sì, infatti, i dati di questo conto, se volete, li trovate su una pagina Instagram che è stata creata proprio per la solidarietà ai fatti di Budapest, che si chiama Solidarietà Antifa Budapest su Instagram, e lì nei post vari ci sono anche le indicazioni per fare le donazioni, e come già ha detto Tommaso è un processo veramente, veramente costoso, quindi sì... Io sono Alice, ciao. Io sono una che partecipo all'assemblea, sì, parlavo di questa assemblea di solidarietà che si è creata a fine novembre, sì, parlo a nome. No, niente, sì. E appunto tra l'altro appunto non ho detto, abbiamo organizzato anche questo corteo che c'è stato ieri, che è andato molto bene, è stato molto partecipato, molto sentito, e vedremo in futuro insomma. No, quello che stavamo anche dicendo appunto, che dopo gli avvocati spiegheranno anche un po' meglio la situazione, come siamo messi a livello legale proprio rispetto a questa vicenda, e ci sarà anche qualcuno che parlerà del MAE, di questo mandato di arresto europeo, di questo strumento che è stato utilizzato, ma adesso tra un attimo ci colleghiamo con un compagno tedesco che ci spiegherà un po' la situazione lì, quindi adesso io lo sento. Sì. Nicola, ci siamo, giusto? Lui è collegato, allora possiamo... Sì. Ci senti? Come parla inglese? Vai. Hi, can you hear us? Sì, il punto è che appunto no, gli avevo detto più o meno ci mettiamo tra 20 minuti, quindi magari adesso che legge il messaggio si mette davanti al computer, insomma. Sì. Perfetto. Vabbè, poi non penso che, non so se era da ripetere effettivamente, non mi ricordo se l'avevi detto tu, di tutta questa faccenda da dove parte, dai fatti di Budapest. La storia. Sì, appunto, che parte tutto dall'anno scorso, l'11 febbraio, quando a Budapest i nazi commemorano la giornata dell'onore, che è una giornata che commemorano dal 97. In cui nel 45 è stato massacrato un battaglione formato da SS tedesche e militari ungheresi che cercavano di resistere all'assedio della città di Budapest da parte dell'Armata Rossa. Quindi loro dal 97 hanno cominciato a hanno creato questa commemorazione che avviene tutti gli anni sotto il diciamo mezzo assenso della città e ci sono spesso delle contromanifestazioni. Quest'anno sono avvenuti anche degli attacchi proprio fisici, a delle aggressioni ai partecipanti di questa commemorazione. Uè, che succede? Ciao a tutti, io sono Emanuela. No, volevo approfittare di questo momento per dire anche che appunto quello che abbiamo detto sul alto costo di questo processo e va ovviamente a comportare il bisogno di allargare il più possibile le iniziative e anche i benefit per raccogliere soldi per riuscire a pagare gli avvocati, il mantenimento in carcere, le spese per le traduzioni, per i viaggi, per fare i colloqui, eccetera, eccetera. Per dare un'idea, abbiamo già speso più di 50.000 euro per Ilaria e il processo andrà anche quello a richiedere costi molto alti sulle migliaia e migliaia di euro. Quindi niente, volevo approfittare per insomma fare un invito, ciascuno con i propri mezzi e con le proprie idee, con la propria creatività, a chi vuole dare una mano da questo punto di vista. E volevo dire che ci sono già dei benefit programmati. Ci sarà il 9 marzo un benefit in Fornace e sì, no, penso che adesso, perché con una data precisa abbiamo credo solo questa, però poi sulla pagina anche Instagram verranno sempre pubblicati tutte le locandine di tutti i vari eventi. Solo questo. Sì, poi dal punto di vista, stavamo dicendo, per avere tutte le informazioni sia sulle novità del caso sia anche sulle varie iniziative che stanno venendo fatte in solidarietà a livello internazionale, c'è un sito che si chiama BASC, il quale link è anche stato messo nell'appello per il corteo, dove vengono pubblicati in varie lingue i testi che vengono scritti su questa vicenda, che ovviamente ha un respiro internazionale, e poi parleremo anche di come si inquadra all'interno di un tentativo di dipingere appunto un quadro associativo a livello internazionale con una collaborazione tra la polizia ungherese e la polizia tedesca, e in questo momento ci sono delle 14 persone che hanno ricevuto il MAE, ci sono ancora 12 persone che non sono state trovate, e poi appunto penso che si entrerà più dei dettagli di spiegare dal punto di vista, insomma, sia legale sia di costruzione politica e mediatica che sta venendo fatta intorno a questo processo sia in Germania sia in Ungheria. E però quindi appunto volevamo segnalarvi questo sito dove si può anche trovare un po' quella che è il lato tedesco e internazionale sia degli attacchi repressivi sia della solidarietà che ne consegue. Io sono Mattia, mi è stato chiesto questo intervento sul MAE perché negli ultimi anni abbiamo seguito la solidarietà a Vincenzo, quindi facevo parte di un'assemblea che seguiva la solidarietà a Vincenzo, che è un compagno di Milano che nel 2011 ha lasciato l'Italia perché era ricercato per le manifestazioni di Genova 2001, è stato latitante 8 anni, poi l'hanno preso in Francia e lì è partita tutta una procedura di mandato d'arresto internazionale che noi abbiamo qua in Italia abbiamo seguito in corrispondenza con i compagni, con un comitato che si era creato in Francia, e quindi credo che sia un po' alla luce di questa esperienza che poi l'archivio, la Calusca, mi avevano chiesto questo intervento. In realtà avevano chiesto, credo, anche a Gabriele Fuga, avvocato, che sarebbe stato molto più preparato di me, e allora prendo spunto da lui per iniziare l'intervento, perché non sapevo bene come cominciare. Allora mi sono andato a rivedere quello che aveva detto in occasione di un'iniziativa che avevamo organizzato proprio qua in Conchetta qualche anno fa, una delle prime per Vincenzo, e lui aveva iniziato quel suo intervento dicendo che l'esilio è un diritto e una pena in qualche modo, no? Perché dice è una forma di libertà, è una via di libertà, è una scelta di libertà, ma allo stesso tempo una scelta che non ti protegge del tutto dalla pena, si porta dietro una sofferenza, un dolore, e questo tipo di sofferenza, di dolore, in qualche modo è un qualcosa che, a cui va riconosciuto, va accordato un rispetto, e storicamente questo rispetto di una condizione particolare come quella dell'esule, come quella del fuggiasco, è un rispetto che anche storicamente è stato accordato in varie forme, ed è un qualcosa che accompagna un po' tutta la storia dell'umanità, diciamo. Per fare solo un esempio su tutti, un'iscrizione, una delle prime iscrizioni in cui si trova traccia del riconoscimento di questa condizione risale addirittura a 2000 anni prima di Cristo, il re Ittita che dice, sta firmando un accordo con il re accanto, limitrofo, del regno limitrofo, e accordo su varie cose, dice però se qualcuno abbandonerà il tuo territorio per cercare riparo e rifugio nel mio, io non potrò mandarlo indietro perché non sarebbe giusto. Quindi per dare l'idea comunque di quanto antiche sono anche delle pratiche poi di accoglienza, di asilo e così, che poi a un certo punto trovano in qualche modo, vengono assorbite e codificate anche dai codici penali moderni, ma sono delle pratiche che precedono la legge, un qualcosa che riguarda proprio le cose fondamentali anche di relazione tra le comunità, il territorio, la sovranità, e il cittadino, il suddito, insomma. Per fare solo un altro esempio che citava in un'altra occasione sempre l'avvocato Fuga, il pensatore, diciamo, del potere assoluto, quindi Thomas Hobbes, ideatore della metafora del Leviatano, che riconosce il diritto alla fuga, cioè dice il sovrano è quello che concentra su di sé tutto il potere che gli permette addirittura di esercitare la punizione sui suoi sudditi, ma questo potere, questa sua forza non sarà mai così grande da sovrastare la libertà inalienabile poi del singolo suddito di provare la fuga, di tentare di sottrarsi alla cattura, no? Quindi, diciamo, anche in un momento di formazione del potere assoluto, delle monarchie assolute in Europa, il diritto alla fuga in qualche modo veniva accordato. Queste premesse, diciamo, riprese da Gabriele, per dare l'idea che quando si va a toccare qualcosa che riguarda questo tipo di questioni, l'esilio, l'estradizione, si va a toccare delle questioni molto fondamentali, non secondarie, non periferiche nel rapporto anche tra gli stati, tra le sovranità punitive, le libertà dei singoli. Sono questioni complesse, delicate, che, come dire, che hanno una storia molto antica, che chiudiamo qua. Arriviamo invece ai giorni nostri per dire che i trattati di estradizione, che trovavano traccia anche di queste cose, a un certo punto in Europa vengono superati. Esistevano dei trattati bilaterali tra stati, no? Quindi l'Italia aveva il suo trattato con la Francia, la Francia il suo con la Spagna il suo con la Germania, e invece vengono superate prima dalle convenzioni comuni a livello europeo, poi vengono superate anche queste convenzioni, e nei primi anni 2000, dopo tantissimi anni in cui se ne parlava, sulla spinta anche dell'allarme internazionale del terrorismo, viene accelerata la messa a punto di questo strumento nuovo, che è il mandato d'arresto di cattura, che ha lo scopo proprio di sostituire gli istituti precedenti con uno strumento unico, molto semplice, molto funzionale e snello, che si accomuna a tutti gli stati. Quindi non ognuno fa quello che ha deciso secondo le sue leggi e le sue procedure, ma tutti devono attenersi a questa procedura comune, e che risponde a queste regole, che però sono estremamente scarne. Poi abbiamo più qui gli avvocati che potranno dirci, però rispetto al passato viene svuotato di tutta una serie di riflessioni, come dire, etico-politiche, viene tutto ridotto a una procedura estremamente tecnico-giuridica. E questo è, come dire, è anche un po' quello che viene detto, che viene propagandato, no? Perché si parla di questo spazio giuridico europeo che si reggerebbe però su un presupposto, come dire, non proprio condiviso ma anzi opinabile, cioè che in Europa abbiamo superato tutti i problemi di passato, di convivenza, quindi non ci facciamo più la guerra tra noi, al massimo ci accordiamo per farla da altri, non c'è più persecuzione politica perché il potere giudiziario e quello politico sono separati, non c'è più intolleranza, non c'è più persecuzione, diciamo, discriminazione razziale, religiosa, e quindi non abbiamo più bisogno di quelle tutele, non si può più parlare di esilio politico, non abbiamo più bisogno di proteggerci dagli abusi che i poteri dei singoli strati potrebbero commettere verso i propri cittadini, perché siamo tutti democratici e tutti conviviamo in armonia. Quindi questo è il presupposto che permette la creazione di questo strumento, che quindi è proprio un escamotage che permette di saltare tutte le differenze che esistevano tra i codici. Premessa, cioè l'Europa non esiste, perché poi alla base c'è questo, cioè non è un'entità politica, no? Non esiste l'Europa politica, tutti mantengono la propria sovranità, tutti mantengono i propri codici, però si danno uno strumento comune che gli permette di scambiarsi prigionieri e fuggiaschi per leggi diverse. È un po' complicato, ma è un passaggio importante. Per fare degli esempi, per dare un'idea di cosa succede nel momento in cui l'unico principio che viene dato come stella polare da seguire per tutti i giudici che devono decidere in questi casi, l'unico principio che viene dato è quello del mutuo riconoscimento, no? Cioè, bisogna orientarsi nelle interpretazioni delle differenze che ci sono tra i vari codici che possono interrompere l'estradizione, guardando all'Europa come appunto un qualcosa in cui ci si fida reciprocamente. Quindi ogni Stato si deve fidare delle sentenze degli altri Stati, esattamente come fa con le merci, no? Io permetto che una merce circoli sul mio territorio anche se prodotta in un altro Stato europeo, perché se quella merce è prodotta lì sicuramente è garantito che rispetterà degli standard sul diritto del lavoro, di fabbricazione e così via, quindi io neanche la devo controllare, no? La faccio circolare, non impongo ulteriori verifiche. Lo stesso, dicono, si può fare con le sentenze di legge. Ogni Stato deve accettare le sentenze di altri paesi senza metterle troppo a verifica, senza entrare troppo nel merito, ma basandosi solo sulla fiducia. Ecco, ma se così fosse, vorrebbe dire imbarcare in questo spazio giuridico europeo, che è stato sbandierato comunque come un qualcosa di avanguardistico che ci avrebbe condotto chissà in quale epoca progressista, imbarcare tutto il peggio che gli stati hanno nel proprio codice. Quindi se tu sei ricercato il reato di devastazione e saccheggio, che adesso, come dire, riguarda per lo più cittadini italiani, può essere applicato allora potenzialmente anche a un cittadino di un altro paese se viene fermato in Italia, non verrebbe più tutelato dal proprio Stato rispetto a dei reati che esistono solo in altri paesi. Penso al caso spagnolo del cantante rap che è finito in carcere perché aveva fatto una canzone contro il re, in cui prendeva male parole il re, no? Noi non abbiamo in Italia delle leggi che tutelino il re da questo tipo di cose, però con un mandato d'arresto europeo questo spazio giuridico imbarcherebbe lì dentro anche quel tipo di legislazione, no? In qualche modo è questo quello un po' che apre questo scenario, cioè da una parte lo svuotamento di tutte le riflessioni etico-politiche che ci sono quando bisogna prendere una decisione in merito parlo in questo caso di estradizione politica, e allo stesso tempo come dire, procedure che vengono vendute come automatiche, come tecniche, come espressamente giuridiche, che però si basano su un presupposto invece che è profondamente politico. Questo a grandi linee un po' quello che credo che siano le novità rispetto al mandato d'arresto europeo. Quello che abbiamo visto come assemblea, seguendo le cose di Vincenzo, è che comunque, nonostante sia sempre più difficile, gli spiragli in cui passare siano sempre più piccoli, però poi le possibilità ci sono. Comunque questi mandati d'arresto si possono interrompere, possono saltare, non è comunque, non si è inutili, non so come dire, cioè abbiamo visto come nel caso di Vincenzo la solidarietà che si è creata da subito è stata determinante su delle cose molto elementari, che poi sono anche quelle che sta facendo l'assemblea adesso nel caso di Ilaria, di Gabriele. Cioè, se nel caso di Vincenzo non ci fosse stato qualcuno che nell'immediato, nei primi giorni, si mobilitava, andava sotto casa, nello studio dell'avvocato, gli citofinava in pieno agosto, non riusciva a convincerlo a seguire, non avessero potuto contattare qualcuno in Italia che tramite gli avvocati italiani gli mandava tutte le sentenze precedenti, quindi non fossero stati subito forniti di tutti gli strumenti necessari per organizzare una difesa, difficilmente nelle prime udienze la difesa avrebbe avuto in mano le cose che gli hanno permesso di interrompere all'inizio il mandato d'arresto e di prendere tempo per elaborare poi una difesa che nel tempo è riuscita poi a strappare una vittoria. È stata una cosa lunga che è stata possibile solo perché si è attivata una solidarietà importante da subito, e si è attivata là dove Vincenzo era andato a vivere, poi di corrispondenza qua da parte di chi lo aspettava. E a me questa cosa ha fatto riflettere anche ultimamente, perché cioè, quando si guardano queste cose di mandato d'arresto europeo, dispositivi di legge, ci si sente soffocati, ma sicuramente c'hai uno spazio di fuga attorno a ciascuno di noi che si è costretto, si è compresso rispetto al passato, per come sta cambiando l'Europa. Non basta più andare oltre confine per poter sperare, è più difficile. Però allo stesso tempo non sono strumenti poi così granitici, così, anche perché non hanno un riferimento di diritto preciso, sono cose che comunque si formano anche abbastanza in itinere, e ogni tanto strappare delle vittorie importanti a livello giuridico apre delle possibilità anche per altri, perché è un diritto che è un po' in gestazione, a parte quei principi orientativi di base che ti dicono allora queste sono le regole, devi stare qui dentro, puoi togliere, puoi far saltare questo ma è solo proprio nei casi in cui, cioè hai la facoltà, se no non ce l'hai neanche, hai la facoltà di farlo saltare solo se non corrispondono queste cose, quindi sembra molto stretto, ma allo stesso tempo poi invece abbiamo visto come la cosa sia trasformabile, non sia così già scritta. Cioè, io partivo personalmente, ma non solo io, estremamente con pochissime speranze in merito, e invece le cose sono andate diversamente. Anche gli avvocati si ricordano come più di una volta la cosa l'abbiamo gettata un po' alle spine dicendo vabbè è perduta, e invece non è stato così, e le sentenze per cui hanno fatto saltare il MAE, cioè i motivi sono stati tre volte tre motivi diversi, Quindi, perché la prima volta l'hanno fatto saltare perché non c'era stata la nomina dell'avvocato in Italia, che era un motivo estremamente formale, proprio che però sembrano cazzate, ma lui è potuto uscire, quindi Vincenzo da allora dal carcere è passato ai domiciliari, che in un caso comunque di esilio, di estradizione, di latitanza è un punto di partenza, non so come dire, cioè sono cose che la seconda volta l'hanno negato proprio su una base invece di critica della devastazione e saccheggio, quindi entrando nel merito della questione della doppia incriminazione, quindi della corrispondenza tra reati diversi, e la terza volta invece gli hanno in qualche modo, siamo più vicini alla forma dell'asilo, come si poteva intendere un tempo, perché gli hanno detto no, vabbè, è una sentenza che riguarda dei fatti molto vecchi, sei tanto tempo che sei in Francia, ti sei rifatto una vita, rimandarti in Italia ti nuovamente ti strapperebbe da quello che stai facendo, in qualche modo verrebbe leso il tuo diritto alla vita in maniera superiore a quello che lo Stato perde nel non poterti punire. Quindi nel commisurare le due cose alla fine hanno accordato la libertà di rimanere sul territorio francese. Quindi, per dire, stessa vicenda, sembrava non ci fosse nessuna possibilità, addirittura nel corso della storia se ne sono presentate tre di possibilità per far saltare questo mandato d'arresto, però di base invece funzionano molto velocemente in maniera molto automatica, si riesce poi a interrompere, a parte quando ci sono dei problemi grossi, ma quando ma ci siamo? Che... ok, boh, ma io se avevo altro da dire in questo momento non me lo ricordo, me lo sono dimenticato, quindi ci possiamo anche fermare qua, poi dopo possiamo... Stavo finendo e stavo dicendo? Sì, in qualche modo l'ho già detto. Ok, sì. Sì, io gli avevo detto il macro argomento. Cioè, vabbè, gli chiedo di spiegare un pochino. Sì, facciamoci. Situazione. Sì, sì. No, se avete qua. Mai altre... Io devo. Va bene, allora... tu devi essere sopra. Io devo essere sopra. Se avete delle domande... Allora, la domanda che facciamo è questa. Va bene. Intanto, un aggiornamento lato tedesco, perché questa è una inchiesta che coinvolge l'Italia, la Germania e forse altri paesi che io non so, e quindi avere notizie sul lato tedesco, che in realtà forse coinvolge più la Germania che l'Italia dal punto di vista della elaborazione del reato, perché lei traduce forse. Hello. Hello. Ecco. Hi. Hi. Hi. You are connected to everybody here in the room. There are a lot of people, and we thank you very much for being here at the telephone. Yeah. Thank you too. Thanks for having me. I will speak a little bit about the situation in Germany, especially the situation or how the repression now works, and especially also against anti-fascists in Germany. There is a difference or a change in the last years, with the fascist movement. I think it's quite similar like in Italy, that the fascists go from the streets and from direct action and really street gang groups to more parliament groups, or like more legal groups that goes to the politic and goes to the far right parties and try to change something from above. And the violence on the streets is not that heavy Wait, can I ask you just to make pauses because I have then to short translate it and afterwards Sorry. Yes, of course. Okay, so 1 minute I will translate what you said till now, okay? Mm-hmm. Okay. Quindi, vabbè, appunto, lui è un compagno di Berlino che ci parlerà della repressione in questo momento in Germania, in particolare nei confronti del movimento Antifa delle differenze che ci sono state negli ultimi anni rispetto appunto a questa repressione, sia nei confronti degli Antifa, sia di tutti i cambiamenti che ci sono stati in questo momento, negli ultimi anni, riguardo a come si muovono i fascisti in Germania. Lui crede che appunto ci siano, che potremmo capire un po' il discorso che fa, perché ci sono delle similitudini con il caso italiano, quindi appunto in particolare al fatto che se fino a tempo fa i fascisti si muovevano soprattutto rispetto a appunto iniziative di strada, gruppi di strada, politica comunque di strada, adesso invece c'è una penetrazione proprio anche ai livelli governativi e istituzionali si è assistito al rafforzamento di partiti di destra estrema. Ok, you can continue. Thanks. And the third thing is, like we see in the whole Europe, that this strategy works out really well. Far-right opinions goes to the middle of the society, and things who are totally forbidden to say is now totally normal to say. I make a break. Allora, esatto, lui dice che appunto purtroppo a livello europeo ovunque quindi appunto tutti i discorsi che inizialmente era quasi proibito nominare a livello pubblico, adesso invece hanno penetrato anche l'opinione pubblica e sono ed è molto più semplice sentire proprio posizioni che normalmente sarebbero state dei gruppi di estrema destra. Ok, you can continue. Mm-hmm. And this the last years, or like 20, 30 years ago, like the 90s, like also in Italy, it is totally normal to resist against the fascist movement and the fascist violence on the street. And yeah, since the 90s or also before the 80s, in Germany, it was totally normal that there was the Antifa street gangs who fights against the fascists, and also with violence for sure, because fascists start the violence and try to evict or try to have control to areas and stuff like this. And yeah, since the 80s in Germany, it was totally normal that there was Antifa groups who fights against fascists. And the difference now is in Germany that the states make these groups, these anti-fascist groups, or especially this one group who are facing repression right now and is also connected to this Budapest case. I will make the connection later. The state in East Germany, in Saxony, starts this trial against Lina and make this anti-fascist action and this anti-fascist defense to a kind of almost terrorist criminality. Okay, so I translate. Appunto, lui dice era normale fino agli, agli anni 80-90 che gruppi organizzati antifascisti si confrontassero per strada direttamente con gruppi invece fascisti. Era una pratica molto diffusa e anche l'utilizzo di pratiche violente era una cosa considerata assolutamente normali, soprattutto di fronte a tutti i tentativi dei fascisti di avere influenza su alcune zone e invadere anche i territori magari delle, considerati antifascisti. E quindi fino agli anni 80 questa cosa era normale. Quello che succede ultimamente, soprattutto da quando è cominciata appunto l'operazione Antifa OSS, è che lo Stato appoggia, diciamo, dei gruppi fascisti, come nel particolare appunto poi ci spiegherà bene che cosa succede nella zona di Lipsia e qual è il gruppo, diciamo, che sta conquistando sempre di più il potere da diversi anni. Nella Germania dell'Est, appunto, con questo intervento dello Stato, queste pratiche antifasciste che una volta erano normali invece vengono accusate quasi di terrorismo e dipinte come terroristiche. Ok. Yes, and the main point what I try to say is that we have what also is special in this area where now this trial was against this against Lina and the others. This area is the most right area in Germany. So we have this right parties like AfD and stuff, and they have the most voices for them in Saxonia. And Saxonia is also the state who make this trial against this Antifa group called Hammerbande in the media. And also the police, the court and the media and the people there make a really big thing out of this, in my opinion, a normal defense work against fascist violence, and put this trial on the highest court you can put in Germany. So that it was clear that the penalties will go also high. It's like this, when it's as higher the court is, as higher the penalties will be, from the beginning. So, yeah, from the beginning, Saxonia tried to make this a special case, but at the end, it was nothing special. Just people who defend themselves against fascists. And we make a translation break, and then we go to the connection to the Budapest case. Yes, I will translate now. And maybe then you can also tell us something about also the situation now at the moment, afterwards. Una cosa molto importante da tenere in conto è che la zona della Sassonia dove si trova Lipsia è la zona in cui i fasci hanno più consenso, perché c'è questo partito della AfD che negli anni ha ricevuto parecchi voti, e quindi anche l'arrivo di questa operazione repressiva è stata molto ben accolta e supportata. Quindi, e questo è anche risultato, appunto, significato un grande successo in questo modo il discorso, tutta la narrazione della Hammerbande, di come agiva in quelle zone, ha avuto appunto un grande ascolto. Questo nonostante in realtà anche dalla parte dei fascisti il livello di violenza dei loro attacchi sia abbastanza alto e considerato normale. Nonostante questo racconto sensazionistico ha funzionato. Soprattutto ha funzionato anche perché il caso è stato affidato alla corte più alta tedesca. Infatti appunto la Germania, essendo uno stato federale, questo caso per la sicurezza dello Stato è stato affidato alla corte più alta tedesca, e il che significa automaticamente che anche le accuse e le sentenze saranno più alte. Ok, you can continue. Thank you. Yeah, I think this is important to understand the situation, how the situation was when Budapest 1 year ago happened, because this investigation, this trial goes for 2 years and ended last year in spring, and in the same time the things in Budapest happens, and they catch the people in Budapest, and at this point, or like directly 2 days, 3 days later, they had contact with the German police or the German state, and also especially with the same police station, or like SOKO, like special unit, who make the investigation against this Hammerbande and make this connection. So now the same people, or also Germany from beginning, the same state lawyer and the same special unit in German make the investigation against the people who get arrested or get searched for the things happened in Budapest. I will make a break. Yes, okay, I'll translate. So in the, questo processo e le investigazioni di questo processo sono durate parecchi anni, vanno dal 2018, e il processo, il primo grado di questo processo, si è quello contro gli antifascisti in Germania, si è concluso a primavera dell'anno scorso. Per questa investigazione era stata creata una unità speciale di investigazione a Lipsia, e che appena ha saputo quello che era successo a Budapest ha fatto il collegamento e si è messa in contatto con la polizia che si stava occupando delle investigazioni per gli attacchi a Budapest. Questi avvenimenti sono avvenuti tra l'altro in un momento in cui c'era grande attenzione mediatica anche in Germania rispetto a questo caso, perché è avvenuta pochi mesi prima della conclusione del processo in Germania. Okay, you can continue. Okay. So the German state, or at the end the German state in general, not just Saxony, start their own investigation, or I don't know the English word, but they blame they make their own criminal organization out of Budapest and ask the Budapest police to give them pictures from the people who got observed and pictures from cameras, and then use this for two things. One, to identify the people, give the names and stuff, to the Hungarian government and also take them for their self case for criminal organization and their self case for how it's called, I don't know, violence, beating up somebody. So they make their own cases and their own investigation and also help the Hungarian government and also try, or not try it, start to search the people who they think who identify them. And this on a really new way, or like a way we didn't knew. The last time this happens was after G20 in Hamburg, that they search people like public with media. And media did this before sometimes, but not as a... As a quest, I don't know, or like before, normally the police had to say, okay, please search them in your newspapers. Some right newspaper did it for sure without this. But now they do it with the permission from the cops and also in television on public banners and stuff like this. And with money for tips and stuff like this. So on a really, really high and public level, this never happened before in Germany. The one time it happened before in left context was after G20. And there was a big criticism, or the police got really a lot of critics for this out of the society. Ok. Quindi, esatto, quello che è successo dopo i fatti di Budapest è che lo Stato tedesco ha si riconosciuto quei fatti come possibilmente compiuti all'interno dell'associazione criminale che loro stavano investigando e quindi fa coopera sia con la polizia che stava investigando in Ungheria, ma anche comincia delle nuove investigazioni sul territorio tedesco. E, l'Ungheria gli fornisce tutte le riprese delle telecamere di Budapest e la polizia tedesca riconosce delle persone e fa partire appunto le proprie investigazioni per associazione criminale, in particolare accusandoli di lesioni gravi, e quindi compie anche delle perquisizioni da subito, dai appena pochi giorni dopo, ma soprattutto la cosa più eclatante è proprio l'utilizzo della ricerca pubblica delle persone, quindi le foto dei ricercati vengono proprio pubblicate su tutti i media, che è una cosa che non è usuale in Germania, era stata fatta l'ultima volta, ma era un caso più unico che raro e tra l'altro anche molto criticato dall'opinione pubblica, era successo a seguito del G20, e dove anche lì la polizia aveva pubblicato delle foto segnaletiche. Però appunto era stata molto criticata, invece in questo caso le foto sono state pubblicate sui maggiori giornali tedeschi, quindi non solo i giornali di estrema destra, che sappiamo hanno l'abitudine anche di fare queste cose, e tra l'altro quello che è particolare è anche il fatto che sia stata posta una taglia su quello che viene riconosciuto come il leader dell'associazione criminale. Okay. Yes. So this is the new thing. What is new? And then for sure there's also this normal repression pressure. They go to the families from the person who they searched. At this moment, they searched 13 people, and yes, they a lot of them are at start of 20 or like in the 20s, beginning 20s, and yeah, they go to the family. They make a lot of pressure to the family. The Secret Service go to the families and make pressure. They make a lot of raids by people, sometimes totally confusing why they use why they raid especially them. Sometimes it looks like they just try to make waves, or like they throw a rock into the sea and look what happens. Yes, so in the last year after Budapest, there was no month without raids in Germany, especially in Lipizza. And yeah, they try to hold the pressure really high, also with this public stuff, and try to catch them. There was a success for them in this thing, especially. They catched Maya at the start of December, and now Maya is in prison in Dresden. It's near, it's the main city of Saxony, near Leipzig. And he waits there, like Gabriele, for the, how it's called, the thing where he has to go to Hungary. Oh. Yeah. Yes. But yeah, he's the only one who get catched until now, and the rest is still on the move. And yes, I also can tell something about Toby if it's necessary, if you want, or you can ask me some things. Okay, I translate this last thing and then I ask. Quindi appunto quello della ricerca proprio pubblica è il dato particolare di tutta questa vicenda, dopodiché la pressione che sicuramente già mette una pressione molto alta, e poi c'è tutta la repressione normale a cui sono anche più abituati, che consiste nelle perquisizioni. Infatti dice che da quando dal giorno dell'onore non è passato un mese senza perquisizioni a Lipizza. Sono avvenute delle forti pressioni dalla parte della polizia sui familiari, addirittura che sono stati addirittura contattati dai servizi segreti. In questo momento ci sono 13 persone che sono ricercate, e appunto una di queste persone era Maya, che è stata arrestata all'inizio di dicembre e che ora si trova in prigione a Dresda, che è la seconda città più importante dopo Lipizza della Sassonia, e anche Maya si trova ad attendere appunto la valutazione della sua estradizione, che è stata formalizzata proprio in questi ultimi giorni. E per ora è l'unica, tutte le altre persone sono ancora latitanti, ricercate, e dice che se vuole, ma magari questo vediamo anche coi tempi, non so, ci può dire anche qualcosa riguardo a Toby, l'altra persona arrestata a Budapest. No, una domanda posso? Sarebbe, sì. Se ha qualche dettaglio di più sul procedimento di estradizione di Maya, cioè su quello, l'iter che sta seguendo, che cosa succede là. Ok, glielo chiedo, sì. Sì. Ok, so more details about the detention of Toby, because we can also say something. We wanted to ask you If you know at what point is the extradition process of Maya, and how, where are we now actually? What are the updates about that? Yes, there. I just know that at the beginning when he go to prison, where they arrest them, there was no extradition from Hungary. Hungary has to make this offer, or official have to make this call for extradition, and when he gets arrested, there was no. So it was just the German arrest. But now, I think 1 week ago, there came this call for extradition from Hungary, and we don't have a date for this court or for this decision in court, but it will come, or it will happen in the next 2 weeks. This court, not the extradition, just the decision. The hearing, yeah. Okay. Quindi appunto all'inizio, quando Maya è stata arrestata, siccome era ricercata anche per dei fatti in Germania, il mandato d'arresto europeo non era ancora stato formulato dall'Ungheria e quindi non c'era nessuna richiesta di estradizione attiva. Questa richiesta invece è arrivata questa settimana, quindi adesso ad oggi non hanno ancora una data per la prima udienza rispetto all'estradizione, però dovrebbe avvenire nel giro di queste due settimane. Va bene, possiamo chiudere. Una domanda qua. There is another question. Ma ho capito bene, è stata posta una ricompensa, una per chi, una taglia per chi fornisce informazioni su qualcuno, il capo, il presunto capo dell'associazione Hammerbande, che non è stato ancora trovato, è così? Sì. Yes, someone asks if it is so that there is a bill on someone that is searched for this repression operation. For who is it? Can you hear us? Yes, but I didn't understand already. Okay. For who is what? Yes, because someone asks if it is more details about this bill that it is asked for the people. So you said there is a public search, and there is also some money offered in exchange of informations or the catch of someone. So the question is, if I have more information about that, I can say that you get 15,000 euros if you make a tip who made a rat, and yeah. There are no so much many more information, just that the state search for them after they get the information from the Hungarian police. And yeah, maybe what is another information is that the connection, I didn't say it, or I forgot to say it, that the connection between this Antifa Ost case with Lina and the Budapest case is that I think three persons who had the same case with Lina, or like the same, or the states or the police say they are in the same criminal organization, are also in this Budapest case. So this is maybe also another information, but then there is no many more information. So there are some people that are searched for the Budapest case that are involved in the same Antifa operation and supposed criminal organization. Yes. Vabbè, appunto, diceva che appunto non riusciva bene a capire la domanda. Comunque, che sì, che ci sono, è stato fatto un collegamento con le due operazioni tra Budapest e la Germania, e che ci sono delle persone che sono coinvolte in entrambe le operazioni. Prima diceva, non l'ha detto adesso, che appunto sì, ci sono delle, sono state appese delle foto segnaletiche di varie persone, tra cui quelle di una delle persone che è considerata il leader della Hammarbande, che sarebbe il compagno di Lina. E adesso lui diceva, non mi ricordo più quanti sono i soldi che vengono richiesti. Lui diceva 15.000, io mi ricordo di aver visto la foto in una stazione di Amburgo con la sua faccia e sotto la taglia, che erano di 10.000 euro. Comunque sì, per il capo di questa organizzazione criminale viene offerta anche una taglia, anche perché lui è ricercato anche per i fatti di Budapest. Okay. Scusa se insisto su sta cosa, ma mi suona sì. Singolare. Prova a riformulare la domanda magari. Ma è normale che in Germania venga posta una taglia per avere informazioni su un ricercato? E poi, questa taglia verrebbe pagata dal governo? Ok, we have a question. So, is it normal in Germany that the state offers money in exchange of a searched person? And in case, who will pay this bill? The state? And in this case, the German state or the Hungarian state? Yes. It's not normal. It's just for really special cases. Normally for really dangerous person or person who had weapons with them or do something really horrible stuff. There's a political will behind them. This, then the states offered money. It's the German state who offered money, and it will also paid. Not the Hungarian. The German government. Sì, diceva che appunto non è una cosa normale, però che accade a volte in dei casi speciali, in particolare con delle persone considerate molto pericolose o se ci sono in ambito politico. E appunto che in questo caso sarà lo Stato tedesco a pagare questi soldi. Okay, there is another question. No, io volevo dire una cosa e poi fare una domanda, perché in questi mesi ci siamo un po' confrontati con i compagni tedeschi e appunto in questo momento intorno a questi processi, sia quello per Budapest sia quello Antifa Ost, proprio a causa dell'accusa di associazione criminale, la polizia può usare dei mezzi repressivi anche nelle indagini che non gli è permesso usare in altri casi. Gli è permesso usarli perché praticamente possono usare gli stessi mezzi che usano per le indagini per terrorismo. E infatti le perquisizioni stanno avvenendo con molta violenza, con la polizia che entra in casa dei compagni con il passamontagna e la mitraglietta in mano, c'è stato un lancio di una granata stordente in un appartamento durante una perquisizione, un compagno che è stato sbattuto a terra senza vestiti, e così come questa cosa della... delle fotosegnaletiche messe nelle stazioni, sui pannelli dove vanno le pubblicità, per capirci, è una cosa che per loro è molto nuova, perché questo uso di associazione criminale non è stato usato così tanto in Italia e in Germania, quanto invece in Italia ci siamo anche abbastanza abituati ormai come movimento. E quello che volevo chiedere era se adesso le indagini per il processo Antifa Host e le varie diramazioni sono finite, e quindi se oppure no, quindi diciamo se queste continue perquisizioni eccetera stanno avvenendo per la questione di Budapest o anche per ramificazioni ancora aperte del processo Antifa Host. E se il compagno mi sente, mi posso tradurre da sola. Ali, come vuoi. Ok, sì, allora credo che ti senta. Ok. So I was saying that I was describing how these measures that the police is using right now in Germany for the searches are peculiar, because the police can use those because of the criminal association accusation, and I was told, tell me if I'm wrong, that they can use basically the same tools, the same measures for the investigation that they use for the investigation in cases of terrorist organizations. And I said that during the searches the police is using a lot of violence. I told the case in Leipzig about the use of a stun grenade and about comrades that were searched, that were immobilized physically to the ground and similar. Because I'll add that is a bit peculiar for us in Italy, because for us searches don't happen with this amount of violence usually. And also my questions was that if the investigation for the different branches of the Antifa Host trial are over, are closed, or if they are still open. So if the searches that are still happening are happening for the Budapest case or for both. Are you there? Ci daremo il dubbio. L'abbiamo perso. Penso che c'è un problema di rete. Comincia da capo. Salutiamo. Va anche in Germania, stessa ora. Sì, sì, lavora uguale. Sì, però ha letto prima. Dai, sa che gli è caduta la linea. Andiamo avanti, dai. Grazie. Ok, are you there? Yes, sorry, internet gone. I got the question. Could you hear the last question? Yes. Yes. Okay. So maybe we can. Yes. So can you answer this last question? Then we will move over and in, yes. Yep. There are. So yes, it's right. this is what I try to say or try to explain with this whole history or this whole situation, that it's totally violent and totally high pressure from society to media to cops to courts to state lawyers, and it's we're facing a repression wave that doesn't happen since Dekaden. I don't know if it's a Italian word or you understand, but yeah, like a few years ago it doesn't happen. So yeah, I don't know if you said they also shut the door open or they used the pump gun to shut doors open or to open doors with shooting the locks. And yeah, and we don't know if the investigation stops for the Antifa Ost case. We think not, but we can't prove it. We also have this snitch who was a part of the circle around the people who get searched or who faced this repression. And yeah, he still works with the cops and he still gets really, really well protected and goes to talk with cops, talk with political parties or high politicians, or political like government people. And yeah, so there's a really bad situation for us right now. For anti-fascists in Germany, not a good mood against us. And yeah, there's a lot of violence, and for sure there, if they close the investigation for this criminal organization in the Antifa Ost case, for sure they opened another one. And yeah, they still work and they will still make to feel as uncomfortable. And yeah, if you continue now, I'm really thankful that you having me. And yeah, I hope we are able to get through this together. And yeah, we see each other on the street. Mm-hmm. Goodbye. Thank you very much. And so I also thank you for having told us all this thing, and now I will translate. But I say you good night, so you can rest now. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Yes. Yeah. Grazie mille. Ciao. Thank you very much. Sì, quello che diceva è che, appunto, come diceva anche Manu, è una situazione, appunto, molto violenta, che neanche loro hanno mai conosciuto, soprattutto, appunto, è un'ondata repressiva fortissima, molto la più forte degli ultimi decenni. Addirittura per entrare in una casa hanno addirittura sparato alla serratura. Quindi questo fa capire appunto l'atmosfera di cui ci parlava anche lei, di grossa pressione e violenza. Non sanno ancora se le indagini per Antifa Ost sono state chiuse, credono di no, ma non possono provarlo, anche perché lo sospettano, anche perché comunque ricordiamo che era coinvolto anche questa figura dell'infame che si è messo a collaborare con la polizia per le investigazioni, che ha rivelato tantissimi particolari. Ed è ancora sotto protezione, quindi credono che ci sia ancora un lavorio contro di loro, e credono anche che ci sia la possibilità che, anche se non stanno più indagando per Antifa Osta, che probabilmente abbiano aperto anche altri procedimenti. Appunto, quindi credono che siano ancora al lavoro contro di loro. Comunque ci ringrazia tantissimo per la possibilità di parlare, ed è sicuro che attraverseremo insieme questo periodo buio e facendoci forza l'uno o l'altro. Vabbè, Mauro, Eugenio, allora. Io sono già qua. Tu sei già qua. Eugenio, qua io. No, dai, dai, lei, vada lei. Allora, iniziamo da un breve sunto delle cose principali che succederanno nei prossimi giorni, che ha già anticipato Tommaso. Abbiamo due appuntamenti, uno è il 29 gennaio, dove avrà inizio il processo contro Ilaria. Avrà inizio perché è stato emesso dopo circa un anno una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Budapest, con delle accuse, come ben sapete. Poi adesso non sto a ripetervi tutto, perché comunque sappiamo qual è la vicenda, le accuse che vengono rivolte a Ilaria, che sono appunto di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due partecipanti, di due neonazisti che erano presenti durante questo corteo, durante questa giornata del 10 febbraio dello scorso anno. È accusata di due aggressioni che, come ben sapete, hanno causato delle lesioni alquanto modeste, lievi, perché sono lesioni che sono state giudicate guaribili in 5 giorni in un caso, in 8 giorni in un altro. Peraltro ci sono anche delle perizie mediche che sono state fatte da esperti del Tribunale ungherese che hanno certificato questa cosa. Nonostante questo, viene contestato un reato gravissimo per cui Ilaria rischia una pena fino a 24 anni. Questa è la prima anomalia anche rispetto al processo Antifa Ost. Abbiamo detto che c'è stato questo grosso processo che è durato anni, si è concluso con delle accuse, con delle condanne pesanti, ma sicuramente non sono proporzionate rispetto a quello che per un singolo episodio rischia Ilaria. Peraltro Ilaria non viene neanche contestata una partecipazione all'associazione, gli si contesta che questo reato sarebbe in qualche modo collegato all'associazione tedesca, ma lei non fa parte di questa associazione. Ecco, nonostante questo, quindi siamo di fronte a una possibile condanna fino a 24 anni, ma con un rischio concreto che questa pena possa essere superiore a 10 anni, perché in questa richiesta di rinvio a giudizio che è stata formulata dalla Procura vi è una specie di patteggiamento, per capirci, rispetto al sistema italiano. Ossia, il pubblico ministero le dice: guarda che se tu vuoi evitare il processo e quindi evitare conseguenze peggiori, puoi limitare i danni e avere una condanna, se tu ti dichiari colpevole delle contestazioni che ti sono state fatte, di soli 11 anni. Quindi capite benissimo che già sotto questo aspetto abbiamo un problema enorme che deve affrontare Ilaria. Appunto, ci sarà la prima udienza il 29 gennaio, che è un'udienza predibattimentale, dove si chiederà proprio questa cosa, se Ilaria vuole accettare, che ovviamente è cosa che non succederà, vuole riconoscersi colpevole, e in caso contrario verranno presentate le prove, insomma la classica prima udienza che si svolge anche in Italia. Speriamo che sia un'udienza molto partecipata anche da Solidali. Noi andremo per dare comunque un supporto a Ilaria. Abbiamo delle difficoltà noi avere contatti con Ilaria, al momento non ci è stata data la possibilità di avere contatti diretti con Ilaria, noi ci interfacciamo con i suoi avvocati. D'altra parte abbiamo un appuntamento che è ancora più vicino, che è quello del del 16 gennaio di martedì per il procedimento che parallelamente è stato attuato nei confronti di Gabriele. Ilaria è stata arrestata direttamente quando si trovava a Budapest l'11 febbraio, non nel contesto dei fatti, è stata arrestata un giorno dopo, probabilmente questi gruppi erano seguiti dalla polizia, l'hanno fermata a bordo di un taxi e da allora gli è stata applicata questa custodia cautelare di 11 mesi con delle condizioni detentive che sono state un po' anche evidenziate anche dai media, insomma, sono state poi in qualche modo ci sono state descritte dalla stessa Ilaria attraverso una lettera che ci ha fatto pervenire, insomma sono condizioni detentive sicuramente che non rispecchiano, per carità, poi non è che in Italia le cose siano buone, niente affatto, anzi, però sicuramente quelle che descrive Ilaria in Ungheria sono sicuramente peggiori alle condizioni detentive italiane. Dicevo che invece per quanto riguarda Gabriele è stato destinatario, in seguito probabilmente a delle indagini che sono state fatte in Ungheria, di questa richiesta di mandato di arresto europeo. Sul mandato di arresto ne ha già parlato Mattia, secondo me ha descritto bene che tipo di strumento sia. È uno strumento di cooperazione giuridica, è uno strumento formale in cui si chiede allo Stato italiano di convalidare, tra virgolette, questa richiesta che proviene dallo Stato ungherese, quindi l'Italia non fa altro che vedere se sono rispettate le formalità di questo mandato europeo e nel caso deve decidere la consegna. Nel tempo la possibilità di respingere la consegna per quanto riguarda il mandato di arresto europeo sono molte limitate dallo Stato richiesto. Prima lo Stato richiedente doveva dare determinate garanzie, doveva anche spiegare con particolari quali erano le contestazioni che erano rivolte nei confronti della persona di cui si chiedeva la consegna. Adesso invece è necessario indicare qual è il reato, indicando il numero del codice penale ungherese, quindi qual è la fattispecie che viene contestata, una brevissima descrizione di qual è il fatto e basta. Prima anche col mandato di arresto europeo invece doveva essere ad esempio allegato qual era l'ordinanza del paese, in questo caso l'Ungheria, che chiedeva la consegna, doveva essere allegato questa ordinanza di custodia cautelare nel caso di Gabriele, dovevano essere anche elencate quali erano le fonti di prova a suo carico. Ecco, tutte queste cose non ci sono più, quindi in questo momento non vi è possibilità in Italia di difendersi sul merito della vicenda. Nonostante questo però c'è la possibilità, perché è vero, come dice Mattia, lo abbiamo visto nel caso di Vince, di in qualche modo di opporsi, ed è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo già avuto due udienze, mi sembra, una il 5 dicembre, l'altra il 12 dicembre, adesso va bene, non mi ricordo esattamente le date. Abbiamo posto alla Corte d'Appello di Milano, che è la Corte che è competente in caso di mandati d'arresti, di mandato di arresto, abbiamo sollevato alcune questioni, e una delle questioni principali che abbiamo sollevato è la questione della, tra virgolette, della democraticità dello Stato ungherese, della garanzia che lo Stato ungherese dà su una determinata serie di aspetti, e uno di quegli aspetti è soprattutto quello relativo al suo sistema detentivo e i suoi istituti penitenziari. Per fare questo abbiamo ovviamente usato le parole stesse che Ilaria aveva portato a nostra conoscenza. Abbiamo prodotto questa lettera di Ilaria, e questa lettera di Ilaria non fa che ribadire poi quanto nel corso degli ultimi anni è emerso da una serie di report internazionali che più volte hanno condannato l'Ungheria per quanto riguarda appunto il suo sistema detentivo. Quindi la Corte d'Appello si è posta effettivamente questo problema di consegnare un suo cittadino a uno Stato che forse non riconosce quel minimo di diritti che sono garantiti a livello europeo. E quindi la Corte d'Appello italiana ha posto una serie di raccomandazioni, come diceva prima, una serie di richieste, come diceva prima Tommaso, allo Stato ungherese. Quindi all'udienza del 12 dicembre ha fissato un termine all'Ungheria per dare questi chiarimenti. Questi chiarimenti vertevano soprattutto appunto sulle condizioni di detenzione, ma ha posto una serie di domande piuttosto specifiche, scusate, sugli spazi detentivi che vengono garantiti a ogni singolo detenuto, sulle condizioni igieniche che devono essere garantite ai detenuti, sulla possibilità di accesso al diritto alla salute, sulla possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita all'interno delle carceri. Ma sono molteplici, perché mi sembra che fossero una quindicina le richieste che sono state fatte sul punto specifico da parte della Corte di Appello. In più ha chiesto poi una serie di chiarimenti più generici che riguardano l'esistenza, e su questo poi ci poniamo anche, sembra anche un po' difficile come possa rispondere lo Stato ungherese, se effettivamente chiedono all'Ungheria se l'Ungheria è uno Stato di diritto. È un po' una cosa, è un po' strana, l'Ungheria dovrebbe rispondere no, non lo siamo, però adesso vediamo come risponderà, perché effettivamente gli si chiede se voi garantite l'indipendenza della magistratura, se garantite la sussistenza di un giusto processo nel meccanismo del procedimento in Ungheria, se riconoscete la presunzione di innocenza, tutte delle questioni molto molto ampie. Avevano questo termine, come è stato detto Tommaso, scadeva questa settimana, scadeva l'11 gennaio. Ci è pervenuta notizia da parte della Corte d'Appello che l'Ungheria al momento ha qualche difficoltà a rispondere. Dicono che è dovuto al fatto che ci sono state di mezzo le vacanze di Natale, eccetera, che è pervenuta tardi la comunicazione, ci sono problemi di traduzioni, e quindi chiede tempo. Quindi non sappiamo se poi effettivamente il 16 gennaio, quindi martedì, verrà presa una decisione definitiva dalla Corte d'Appello, o se deciderà di procrastinare la decisione, quindi di dare più tempo all'autorità ungherese. Io ritengo che ci si debba opporre a questa richiesta, perché il MAE è una procedura molto veloce. Tenete conto che chi viene arrestato non ha tempo praticamente di svolgere una difesa completa, perché gli spazi sono temporali, sono limitatissimi, perché Gabriele è stato arrestato il 21 dicembre, il giorno dopo abbiamo avuto l'udienza di convalida dell'arresto, non si chiama proprio così ma per capirci, e abbiamo già avuto lì una prima vittoria, perché invece di applicare la custodia in carcere, cosa che avviene nel 90% dei casi in cui viene richiesto un mandato di arresto europeo, la Corte d'Appello ha deciso di applicare una misura più tenue, che è quella degli arresti domiciliari, con tutte delle restrizioni, comunque sono molto pesanti e impattanti per quanto riguarda la vita di Gabriele, ma comunque non è andato in carcere se non i primi due giorni. Ecco, quindi una procedura velocissima, c'è la convalida, dopo 10 giorni abbiamo già avuto l'udienza, quindi noi dobbiamo fare in maniera velocissima per difendere. Dopodiché viene dato uno spazio invece abbastanza enorme per l'Ungheria per potersi lei difendere. Considerate proprio, cioè non viene rispettato neanche quel principio di assoluta celerità di questo procedimento. Vi dico un'altra cosa: nel caso l'udienza di Gabriele dovesse andare male, vi è la possibilità di fare un ricorso in Cassazione. Ecco, la difesa per fare un ricorso, che vi dico complicatissimo, ci sono 10 giorni di tempo. 5 giorni. 5 giorni di tempo, quindi risponderemo anche noi così che ci abbiamo avuto il weekend. C'è stato, esatto, quindi se ci danno un termine. Quindi noi almeno ci opporremo sicuramente di fronte a questa richiesta di rinvio, però sarà difficile che ci diano ragione. È molto probabile che questo rinvio venga dato. Che cosa dire? Beh, le cose da dire poi sono tante, poi sicuramente Mauro ne dirà altro. Come ha detto Tommaso, abbiamo avuto la fortuna di avere un certo interesse da parte della stampa, soprattutto è stato il padre di Ilaria che ha fatto vari appelli, sapete, eccetera. C'è stato anche un interesse da parte di alcuni parlamentari, pochissimi, per carità, sempre gli stessi, 2 o 3, la Cucchi, eccetera. Però, insomma, un'attenzione c'è stata, tanto che alla fine è dovuto comunque intervenire il governo con una risposta che è stata fatta dal ministro Nordio giovedì o venerdì scorso, adesso forse giovedì scorso c'è stata un'interrogazione parlamentare di un senatore di, come si chiamano quelli lì, Alleanza Verdi, eccetera, di lì. E il ministro Nordio, non so se avete visto la risposta, è stata veramente, veramente imbarazzante la risposta che ha dato Nordio. Nordio ha sostenuto che Ilaria è seguita, che c'è stato un interesse da subito da parte del consolato, che è sempre seguita, sono presenti alle udienze, eccetera. A parte che non è proprio andata così, perché per 2 mesi Ilaria è stata completamente abbandonata a se stessa, non ha ricevuto assistenza nemmeno dal consolato, non è stato consegnato un pacco, perché poi era solo il consolato che poteva consegnarlo, perché lei è in una detenzione particolare, molto severa, con delle restrizioni anche per quanto riguarda i colloqui. Lei per 6 mesi non ha avuto neanche i colloqui con i familiari, non avendo i colloqui con nessuno era nell'impossibilità di ricevere il primo pacco di assistenza, che quindi doveva pensarci il consolato, e il consolato non ci ha pensato. Lei è in una detenzione che, se vogliamo fare un paragone un po' forte ma secondo me calzante, è quello che potrebbe essere un 41 bis, perché è veramente di questo che stiamo parlando. A fronte di un reato del cazzo, delle lesioni lievissime, gli è applicato una è in un carcere di massima sicurezza con un regime detentivo molto ma molto severo. Pensate che i colloqui, come a 41 bis, avvengono a distanza, con il vetro, con il telefono, addirittura anche con gli avvocati, peggio del 41 bis italiano, dove invece i colloqui con gli avvocati avvengono in maniera più semplice. Il vetro per i colloqui con gli avvocati è più sottile. È così, il vetro per i colloqui, sì, è specificato questo. Insomma, quindi, dicevo, il ministro Nordio ha detto di un interessamento da parte del consolato, e poi ha detto che in questa fase comunque lo Stato italiano non può fare nulla, perché c'è una giurisdizione di uno Stato estero, non è prevista la possibilità in questa fase che si possa ottenere che Ilaria venga trasferita in Italia, perché questo sarebbe consentito secondo le convenzioni internazionali, quindi secondo le decisioni che sono state emesse dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo, solo per le persone che hanno una sentenza definitiva da scontare. Un cittadino appartenente alla comunità europea, una volta che ha una condanna definitiva nello Stato estero, può richiedere che la sua detenzione avvenga nel suo paese di residenza. Ecco, però non è proprio così, ed è questo che quantomeno i genitori di Ilaria, suo padre, chiede, è che possa essere trasferita in attesa del processo in Italia. Per 2 ragioni, dico io. La prima è che continuare con una misura cautelare di questo tipo dopo un anno è assurdo, perché non ci sono più esigenze cautelari. Le indagini sono finite, come vi ho detto è stata messa la richiesta di rinvio a giudizio, quindi non ci sono ragioni di questo tipo, quindi di inquinamento probatorio, non ci sono esigenze di questo tipo. Per quanto riguarda il pericolo di fuga, nemmeno questo, perché lei ha già documentato alle autorità inglesi che ha una casa in Italia, ci sono i genitori che possono garantire per lei, che aveva un lavoro in Italia, faceva l'insegnante, quindi una situazione del tutto che, quindi anche sotto questo aspetto la misura cautelare, soprattutto anche perché ormai il processo è iniziato, non trova più giustificazione. Comunque ad ogni modo si potrebbe applicare la misura degli arresti domiciliari in Italia. Questa misura è espressamente consentita da una normativa europea, normativa che è stata recepita sia in Italia che in Ungheria. Quindi quello che chiedono i genitori, che hanno chiesto al ministro Nordio, ai ministri competenti, al ministro degli esteri, è che si intervenga per spingere questa richiesta. Ecco, Nordio invece ritiene che non si possa fare. Poi ha fatto un riferimento veramente, veramente assurdo, non so se l'avete sentito, che l'Italia poi peraltro sotto questo aspetto è un paese di cui non ci si può fidare, perché è un paese che non rispetta i patti. Si dice, forse noi dimentichiamo ma gli altri non dimenticano, voi siete troppo giovani, diceva rivolgendosi al senatore che gli poneva la domanda, dice voi siete troppo giovani ma gli altri stati ricordano, per esempio il caso, in particolare il caso di Silvia Baraldini, quindi torniamo dietro di una 25 anni 25, 96 forse, adesso non mi ricordo, 99 anni, il caso di Silvia Baraldini condannata negli Stati Uniti per partecipazione a un'associazione sovversiva collegata con alcune azioni a loro volta collegate con il movimento delle Pantere Nere, condannato a uno sproposito di pena, 43 anni di pena, venne poi, dopo aver scontato parecchi anni, estradata in Italia, venne consegnata all'Italia, anzi, per l'esecuzione della pena nell'ambito di quei rapporti internazionali che consentono, esattamente come ha detto Primo Gene, ci sono trattati tra molti stati, tra Italia e Stati Uniti c'è un trattato di questo tipo, di finire di eseguire una pena nel proprio paese. Venne in Italia e dopo qualche anno il governo Prodi nel 2006 emanò il famoso indulto, quindi lei come tutti gli altri usufruì dello sconto di pena di 4 anni sul fine pena e in applicazione poi di altre norme dell'ordinamento penitenziario italiano, quindi nel perfetto rispetto dello Stato di diritto finì di scontare la propria pena e venne liberata. Cioè Baraldini ha ascoltato legalmente tutta la pena, anche perché poi la competenza, una volta che una persona viene trasferita sull'esecuzione della pena, spetta allo Stato dove lei la deve eseguire e quindi può usufruire di tutti quei benefici, se ci sono e se sono accessibili, penitenziari previsti nel caso dallo Stato italiano. Quindi Che il ministro nello stesso giorno... addirittura il giorno prima, allora questo avviene l'11 gennaio, il giorno prima, senza che sia uscito sui giornali, perché è uscito il 12 sui giornali, avete visto quella notizia di Don Reverberi. Esatto. Quindi chi non rispetta i patti forse è proprio Nordio. Cosa è successo? Don Reverberi è un cazzo di prete argentino responsabile di collusioni con lo Stato assassino della dittatura di Videla, era accusato di... peraltro di alcuni di aver partecipato come complice, adesso non so nel dettaglio, di alcuni omicidi, l'Argentina ne chiedeva l'estradizione è stata concessa dalla Corte d'Appello, adesso non mi ricordo di forse Roma, penso la Corte d'Appello di Roma, e confermata dalla Cassazione, ok? Quindi due gradi di giudizio confermano che Don Reverberi deve essere consegnato in Argentina per essere giudicato. Cosa succede? Nordio ha bloccato l'estradizione per motivi di salute, supercazzole varie, per carità, poi magari ci sono delle cose, ma in realtà la situazione della salute era già stata valutata sia dalla Corte d'Appello che dalla Corte di Cassazione e aveva ritenuto che questo stato di salute fosse compatibile col suo trasferimento e la possibile esecuzione di una condanna in Argentina. Cosa succede? Il ministro ha bloccato, attaccandosi a questi motivi di salute che secondo lui invece non sono stati valutati bene dalla Corte d'Appello e dalla Cassazione, e ha rigettato questa richiesta. Questo perché... contrariamente a quanto previsto per il MAE, dove non c'è la possibilità che il ministro, il governo, scusate, sì, non c'è la possibilità di un intervento da parte del governo, invece nel processo di estradizione normale, quindi al di fuori dei paesi della comunità europea, dove ci sono garanzie un po' più complete per quanto riguarda il procedimento di estradizione, è anche previsto la possibilità che in via amministrativa, per decisioni politiche, il governo possa bloccare l'estradizione. In questo caso è stato fatto. Quindi, se non c'è una persona che non rispetta i patti, in questo caso è proprio lo Stato, è il ministro Nordio. Invece poi si attacca a un principio totalmente opposto per quanto riguarda la situazione di Ilaria. Questa cosa la trovo bizzarra. Ripetiamolo, e dimentica, dice non esistono, ma questo merita veramente di essere sottolineato, perché è singolare. Ma non ha parlato nessuno di questa cosa. Noi abbiamo scritto una risposta al ministro, vediamo se ci risponderà. Effettivamente è molto singolare che il ministro ignori l'esistenza, ignori, dia mostra di ignorare l'esistenza di una norma europea che consente l'applicazione di misure cautelari nell'ambito dell'Unione Europea per procedimenti pendenti in un altro Stato. No, ma poi non è che la ignora, perché poi l'ha citata nella sua risposta, ma non l'ha capita, è ancora peggio. Gli arresti domiciliari sono certamente applicabili in questo caso ad Ilaria. Quello che manca forse all'Ungheria è una spinta politica. Ecco, una domanda sui domiciliari, perché dicevate là si calcolano un punto sì, di meno, sì. Forse in Italia, so che prima c'è forse questo tipo di problema. Lì c'è la questione dei domiciliari. Allora, la normativa ungherese ha degli aspetti un po' bizzarri, e effettivamente, cosa che per noi è incomprensibile, poi dipende dai reati, ma per il reato contestato Ilaria un giorno di arresti domiciliari vale un quinto di detenzione in carcere, quindi non è neanche così tanto vantaggioso, però ovviamente tornare in Italia per Ilaria sarebbe fondamentale. Quindi... No, certamente, sì, se lei venisse in Italia sarebbe lei in verrebbe, Italia, ma sotto la giurisdizione ungherese. Cioè sarebbe una misura cautelare a tutti gli effetti ungherese, ma eseguita semplicemente in un altro Stato dell'Unione Europea. Cioè l'Italia ha solo tramite la Corte d'Appello, sempre, che è sempre competente per queste cose, ha solo un potere di vigilanza sulla misura, non ha altri poteri. No, perché lì non è una sentenza definitiva e non è una pena da eseguire. Il problema di questa normativa qual è? È che è una normativa abbastanza recente e che necessita della piena fiducia degli Stati per poter essere effettivamente efficacemente applicata, quella di sostituirsi nella custodia di una persona sottoposta a misure cautelari. Non ha avuto tantissime applicazioni. In Ungheria i colleghi ungheresi ignoravano completamente questa possibilità. Gli abbiamo poi mostrato noi la loro legge nazionale che consentiva l'attuazione di questa misura, ma non hanno molti precedenti, quindi sono diffidenti. Una spinta politica sarebbe certamente utile e possibile, non mi sembra neanche così onerosa, ecco, da parte dello Stato italiano, a meno che si preferisca, per una scelta, tenerla, però allora non ci si dica che non è possibile fare niente in questa fase, perché non è così. Rientra nei compiti di protezione diplomatica che uno Stato si deve assumere nei confronti di un cittadino italiano. Se quindi c'è questa richiesta, la deve appoggiare, non è che non può appoggiarla, questo è il punto. Ma l'autorizzazione viene data dal tribunale ungherese o dal governo? Dal tribunale. Tribunale ungherese. Dal tribunale. Sì, è il tribunale ungherese che deve valutare la fattibilità di questa cosa. Io posso capire che forse all'inizio dell'applicazione della misura poteva essere una richiesta difficile da applicare per il tribunale ungherese, ma adesso che le indagini sono finite e è iniziato il processo, non vedo quali ci siano perché non applicargli questa misura, insomma. La vorranno far assistere al processo. Quanto dura? Ma ci dicono i colleghi che la durata del processo è simile alla nostra sostanzialmente, sì, quindi certo. Qualche anno, complessivamente. Complessivamente, ci sono... Le pause tra le udienze sono di qualche mese. Ci sono parecchi testimoni, bisogna capire, poi non ho capito bene come funzioni il procedimento ungherese. Andiamo anche a cercare di capire un po' queste cose, certo. Non ho capito se i testimoni vengono sentiti o vengono acquisite le dichiarazioni, perché poi in questa richiesta di rinvio a giudizio mi sono accorto che c'è scritto questa cosa, che vengono acquisite le dichiarazioni. Ma da quello che ho capito io, è possibile per la difesa chiedere di sentire specifiche riscontri, specifiche testimonianze in luogo dei verbali, ecco, in buona sostanza. È un procedimento misto con dei caratteri, noi diremmo inquisitori, non pienamente accusatorio, come invece è un procedimento complesso. Quello che rende difficile questo procedimento è ovviamente l'Ungheria, la difficoltà con la lingua anche per noi avvocati. Non c'è quella collaborazione magari che c'era con i colleghi francesi, era tutto un po' più semplice. Oddio, non è mai semplice, però non è mai fare semplice con gli avvocati. Però costano anche un sacco di soldi questi avvocati ungheresi. Ah, ecco, non siamo noi, che abbiamo preso 50.000 euro, no, per dire. No, era per chiarire, perché sennò, caspita, vengono quegli avvocati dei 50.000 euro. No. Loro non hanno neanche molto una storia di procedimenti di difesa politica, no, anzi non ce l'hanno proprio. E quindi questo processo viene considerato alla stregua di un procedimento per criminalità comune. Peraltro particolarmente grave per come la qualificano. Un dettaglio ulteriore sull'accusa: lei è accusata di lesioni potenzialmente letali, ma noi qui intravediamo un equivoco, qualcosa che non ci convince fino in fondo, perché le lesioni sono effettivamente guarite, non sono state soltanto giudicate guaribili in 7 e 5 giorni, ma sono risultate guarite in quei giorni, quindi le lesioni non erano potenzialmente letali, le lesioni hanno causato il danno che hanno causato, questo sotto l'aspetto oggettivo. La norma sembrerebbe fare riferimento quindi all'aspetto oggettivo, cioè alla idoneità dell'azione a causare un danno mortale, e questo non c'è. Ma sembrerebbero invece far rientrare dalla finestra una potenziale volontà, cioè non si capisce se loro la vogliono accusare di tentato omicidio imputando agli accusati una volontà di causare la morte, o se invece li vogliono accusare di aver rischiato di causare la morte, con una specie di dolo eventuale sarebbe qua, cioè aver accettato il rischio che la loro condotta potesse portare all'evento lesivo. Quindi avremmo sotto l'aspetto soggettivo una condizione che si chiama di dolo eventuale, ma sotto l'aspetto oggettivo una condotta che ha causato soltanto questi danni. Da noi sarebbe un tentato omicidio con dolo eventuale, che però non si può fare. Ci sono sentenze che negli anni si sono stratificate su questa faccenda, e da noi è riconosciuta la incompatibilità tra una volontà, tra il dolo eventuale e un delitto tentato. Non si può contestare a qualcuno di avere rischiato di fare qualcosa se non voleva fare quel qualcos'altro. Questo è un aspetto. L'altro aspetto molto rilevante è quello dell'associazione, perché anche qui da noi o si è associati in un reato associativo o non si è associati, cioè potreste dire c'è il concorso esterno nel reato associativo, però è una cosa diversa. Qui si contesta, non vengono neanche ipotizzati dei collegamenti con l'associazione, ma il reato è particolarmente grave perché commesso nell'ambito di un'associazione. E anche questa ci sembra una definizione abbastanza ambigua, abbastanza fumosa, abbastanza discutibile. Ne abbiamo parlato con i colleghi ungheresi su questo secondo punto, sono d'accordo, sul primo punto meno, forse veniamo messi anche un po' in difficoltà della traduzione della fattispecie di reato di cui disponiamo, che comunque sono traduzioni così un po' alla buona, però sicuramente sono due punti importanti nella difesa del processo che sta per incominciare. Sì. Io volevo chiedere su questa cosa, che appunto c'era stata questa confusione sul che l'avessero accusata di aver provocato lesioni o dell'intenzionalità. E non si capisce. Ma nei documenti delle indagini portano delle prove di questa intenzionalità? Assolutamente no. E quello che stavo pensando io è se prove della possibilità, non ce ne sono. Ma è anche perché è una probazio un po' impossibile da... Cioè da noi nel nostro sistema il tentativo si struttura su due elementi, un elemento soggettivo, cioè la volontà, per esempio nel caso di tentato omicidio, la volontà di uccidere, e sotto l'aspetto oggettivo l'idoneità della condotta a uccidere, deve averli tutti e due. Qui manca, perché qui non c'è sicuramente una volontà di uccidere, ma non c'è neppure un'idoneità dell'azione ad uccidere, tant'è che l'azione ha causato semplicemente quei danni che sono stati poi effettivamente valutati. Scusate, io quindi volevo dire, ma allora è ammissibile che si volte alla senza, ma in proprio perché c'è molto fragante, non ci sono cose da dire, è ammissibile che si faccia, si vada a tentare un processo di estensione lì, e come ragazzo soggettivo mi sembra equiparabile a una storia con pazienza psichica. Non ho capito l'ultima cosa che ha detto. Una ricomberata associativa, una sorta di compartecipazione psichica, questo hai detto, giusto? Sì, certo che si accetti, a livello confero, a livello giuridico, di fare un processo di estensione. No, ma per quanto però, cioè, hai ragione sotto alcuni aspetti, per quanto riguarda il fatto in sé, c'è un materiale probatorio nei confronti delle persone che sono state arrestate, che poi dovrà essere valutato, anche perché Ilaria non si riconosce come partecipe ai fatti, ma ci sono immagini, ci sono fotografie, ci sono delle perizie, c'è del materiale probatorio. Adesso poi noi non lo conosciamo nello specifico perché non abbiamo avuto accesso a tutto questo materiale. Un conto invece lui dice che manca appunto una prova per quanto riguarda l'altro elemento. Cioè il discorso del dolo eventuale, uno ti può accusare di aver fatto qualcosa che tu proprio, per esempio l'omicidio col dolo eventuale, no? Uccide una persona senza volerlo, ma hai accettato il rischio di ucciderla e poi l'hai fatto, e quindi io ti accuso di un reato doloso, cioè di omicidio volontario col dolo eventuale da noi, ma in questo caso non è stato raggiunto l'evento, quindi è contraddittorio questo secondo la nostra cultura giuridica, che però deve avere in comune un minimo comune denominatore con quella ungherese nei requisiti minimi della colpevolezza previsti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e quindi non possono più di tanto spingersi, cioè ci sono effettivamente dei limiti. Il punto è che non possiamo sollevare adesso questa questione, perché l'eventuale valutazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo arriva a posteriori, alla fine, dopo che sono state esaurite tutte le vie di giudizio interne. A quel punto il quadro è proprio questo. No. No, sì, ci sono i trattati, i trattati pongono certamente dei diritti fondamentali anche per quanto riguarda... Certo, certo che dentro, infatti si applica il sistema del mandato di arresto europeo. Però per avere una valutazione giurisdizionale sul rispetto di queste norme bisogna aspettare che vengano applicate. Cioè prima devi fare tutto il percorso interno previsto dalla normativa dello Stato, dopodiché puoi fare una richiesta di rivalutazione alla Corte Europea. Ah, scusa. Beh, allora, una volta che poi le riceveranno, quindi cioè voi potete questionare le risposte, cioè perché... Beh, noi possiamo valutare, sì, certo. Noi le possiamo valutare, certamente, noi le valuteremo, vediamo. Molte sono domande molto puntuali. Per quanto riguarda il carcere? Al limite del provocatorio. Sì, infatti, è quello che... Cioè, cosa puoi rispondere? Non so. Beh, no, alle domande sulle condizioni detentive in realtà possono rispondere, devono soltanto impegnarsi un po', ma possono rispondersi. La gestione del peculio del detenuto, per esempio, per noi potevamo... Ilaria poneva questo problema, il fatto che i detenuti stranieri lavorano, sono obbligati a lavorare, ma hanno problemi a percepire la paga, la percepiscono in misura minima, sulla questione della nutrizione, della dieta che viene somministrata, sulla questione igieniche, il controllo delle guardie carcerarie nella gestione della vita del carcere. Queste domande sono molto specifiche. Poi c'è una domanda generica sulle iniziative prese dall'Ungheria per garantire il rispetto dello Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura. Questa domanda sorge da una serie di iniziative delle istituzioni europee, in particolare del Parlamento europeo, che in due occasioni, una in particolare ha censurato il governo ungherese e la legislazione ungherese per le misure che venivano adottate tali da limitare sempre di più la libertà e l'indipendenza della magistratura. E sono risoluzioni molto recenti. Le risoluzioni sono recenti. Qualche misura è stata adottata. Se uno cerca. Vediamo comunque. Cioè la risoluzione è abbastanza recente. Vediamo se rispondono. Sì, verosimilmente, scusate, solo per concludere, alla prossima udienza voi anche riceverete queste risposte. No. Non, verosimilmente alla prossima udienza non avremo risposte, ma avremo una richiesta di proroga del termine per rispondere adeguatamente. E noi diremo, va bene, allora però poi dopo quando avremo la sentenza noi chiederemo una proroga del termine per impugnare. Ma voi la risposta la sapete tramite il dibattimento oppure vi arriva... La risposta viene depositata alla viene corte, depositata nella cancelleria corte. Della Corte d'Appello. Al momento l'Ungheria ha depositato questa richiesta. In udienza? Sì, sì. No, tanto che aveva dato termine 5 giorni prima, l'11 gennaio, proprio perché poi la difesa devono potesse avere depositati in tempo vista dell'udienza. Non a sorpresa, ecco. No, abbiamo certamente un termine per poter valutare. Sì. Ecco, c'era l'ipotesi che l'Ungheria non rispondesse proprio. Ecco, invece questa sembra doversi scartare, visto l'iniziativa di chiedere una proroga. E quanto dovrebbe essere la proroga? Non lunghissima. Avevo una considerazione e una domanda per rispondere è facile. La considerazione è che è proprio una specie di prateria, perché se ho capito, l'associazione a fianco nel contesto della quale è compiuto il reato che fa sì che è tedesca. Totalmente. L'associazione è quella di cui parlava il collega. Abbiamo una imputata di nazionalità italiana che viene supposta commettere un reato in Ungheria e dovrebbe essere affine ad un'associazione tedesca. Sì. È la stessa, secondo loro. Non è un'altra, è la stessa associazione che ha operato in Ungheria. Sarebbe tedesco, non ungherese. Totalmente. E poi, a parte questi scambi che diceva il compagno al telefono prima, di fotografie, di cose che sono impressionanti, cioè, e che hanno valore, immagino, giuridico. Sì, certo. Prepariamoci. C'è una trasparenza totale su alcuni, su alcuni piani. Sì. È veramente curioso. E questa cosa che diceva Mattia prima, interessante anche quella, perché tu parlavi di Vincenzo, dell'esilio, del diritto, ma poi è il contrario, perché qua è Gabriele in Italia. Cioè, quindi tu hai il diritto all'asilo nel tuo paese rispetto a una cosa di marcia, è molto complicato, interessante, ma si basa, però attenzione, che sia un casino dal punto di vista, ma questo ci piace a noi, a noi va bene questo, a noi questo qui ci piace. Chiedo, ma guarda, da questo punto di vista è curioso. La domanda facile era, Gabriele ha lo stesso capo di, è uguale, è nello stesso, ha lo stesso capo di imputazione di Ilaria, preciso e identico. Parli di uno, parli dell'altro. Proprio le stesse due aggressioni. No, la questione è questa qua, sono praterie, ma è vero, noi qualcosina abbiamo visto di diciamo, questi rapporti giurisdizionali internazionali, non soltanto riguardo queste faccende, E quello che abbiamo potuto verificare è che effettivamente gli stati che sono così rigorosi e ipocriti quando si tratta di giudicare i propri sudditi, quando si tratta invece di giudicare il comportamento degli altri stati nell'esercizio della loro prerogativa, diventano più puntigliosi, diventano più paraculi e poi subentrano altre diventa politico il piano, diventa cioè diciamo l'ipocrisia del diritto penale diventa palese nei rapporti internazionali, infatti il diritto penale internazionale non esiste nella sua natura diciamo propria di diritto penale, esistono i tribunali speciali internazionali, no? I giudici in questo momento dovrebbero rifiutarsi di applicare le misure cautelari in Italia, no? In carcere è a quello che è, 61.000 persone detenute, però le applicano, continuano a mettere le persone in carcere. Non siamo tanto in una situazione diversa in questo momento. Però è vero, quando si tratta di giudicare gli altri stati, però... È diverso. Bravo, è così. Sì. Beh, questo però è uno spazio di difesa e di azione certamente esistente, perché se da un lato la repressione si internazionalizza, anzi è un fatto, la repressione si internazionalizza, questo determina dei problemi perché ci sono certamente delle azioni investigative coordinate più ampie, ma determina dei margini di difesa maggiori. Pensiamo al caso dei greci. I greci di Expo 2001 non sono stati giudicati in Italia, l'Italia non è riuscita a giudicarli ed era identico il caso, avevamo un mandato di arresto europeo, avevamo reato commesso in Italia in questo caso, mutiamo Ungheria con Italia, il reato era commesso in Italia e l'Italia richiedeva a gran voce la consegna di questi soggetti e in Grecia hanno reagito cominciando a dire, perché cosa li volete? Che prova avete? Insomma, tutta una serie di criticità che onestamente noi avremmo risolto all'interno del nostro sistema, sarebbero state risolte in mezza udienza e verosimilmente anche i greci nei confronti dei loro procedimenti avrebbero risolto in mezza udienza, sono diventati un ostacolo sufficiente per non far consegnare queste persone. Poi dopo lì ci si è messa di mezzo proprio la magistratura, diciamo il potere statale greco che ha processato i propri cittadini, perché esiste anche questa possibilità di processare i propri cittadini per fatti commessi all'estero. Quindi si sono creati due procedimenti, quello italiano di Milano per i fatti commessi a Milano e quello di Atene per i fatti commessi a Milano. Quello di Atene si è chiuso prima e a Milano. Rido perché mi ricordo bene quando è andato l'udienza. Quindi questo, ma lo stesso caso di Vincenzo è evidente, perché appunto Mattia ha sottolineato bene, abbiamo avuto tre motivi diversi di rifiuto, dei quali due sono giuridici, il terzo è totalmente politico, ma in un ambito nel quale la valutazione politica dovrebbe teoricamente essere assente, perché proprio nell'ambito dello sviluppo della cooperazione tra Stati europei, prima giravano le merci, adesso devono girare anche i detenuti. Cioè un motivo che onestamente non è prevista dalla legge sul MAE, non è previsto. Quindi entrano in gioco fattori diversi in questo caso nei rapporti tra Italia e Ungheria sarebbe potuto accadere secondo il MAE che Vince scontasse la pena in Francia, ma non che non la scontasse. Il radicamento sul territorio giustifica che tu puoi scontare la pena dove sei radicato. Se io sono italiano ma vivo da 20 anni in Francia, dimostrando che io ho lavoro eccetera eccetera, posso scontare la pena nel paese di residenza. In questo caso si è andati oltre. No, non sarebbe automaticamente valida, no? E no, proprio perché in realtà appunto è una comunità di stati che però continua a mantenere un'indipendenza, questa qua dell'Unione Europea. Quindi la Germania non sarebbe vincolata alla decisione dell'Italia. Si potrebbe verificare per assurdo una situazione in cui uno stato consegna e l'altro non consegna. Però poi, come capite benissimo... Può avere un peso però. come capite benissimo, sono rapporti. Se uno dei due stati politici decide prima di non consegnare all'Ungheria, secondo me è un peso anche per l'altro. Un peso ce l'ha. Ecco, poi però chiediamoci, però valutiamo bene quali sono le potenze in gioco. Italia, Ungheria, Germania. E come ci ha spiegato il compagno da Berlino, la Germania ha investito risorse investigative, sì, politiche importanti in questa cosa. Sì, e poi c'è la questione che, da quello che ho capito, Maglia è sotto indagine anche in Germania, quindi ci potrebbe essere anche una valutazione di questo tipo. Noi lo processiamo qua per l'appartenenza all'associativo. Poi, quindi, poi non conosco bene il caso, quindi forse sì, sono un po' separati le due posizioni. Il MAI però... No, lui intendeva dire probabilmente che la richiesta formale è arrivata in un secondo momento. Il MAI, da quello che abbiamo capito noi, il MAI si basa su un'ordinanza del paese richiedente, quindi dell'Ungheria, e quell'ordinanza dovrebbe essere la stessa, che riguarda forse più persone, sicuramente riguarda Gabriele Maglia. Poi dopo i tempi, cioè, la procedura... di emissione del MAI nei vari paesi può essere diversa, può essere notificata in momenti diversi, eccetera, ma l'ordinanza secondo me è la stessa. La procedura prevede che quando uno Stato emette, ha intenzione di emettere un mandato di arresto europeo, intanto comincia a emettere tramite Interpol una richiesta di cattura a livello internazionale. Quindi tutti gli Stati membri del sistema Interpol sono organizzati, sono pronti all'arresto. Il primo che lo arresta comunica, e a quel punto lo Stato richiedente trasmette in un determinato termine tutte le carte. Chi prima? Forse. No, vabbè, semplicemente che mai è stata arrestata per un procedimento che aveva. Sì, è stata arrestata prima per un'altra causa. E poi è arrivato il MAI. Ok, più chiaro. Sì. Sì, no, volevo fare delle domande, però sì, quella cosa che ha detto Eugenio, poiché MAI è imputato in un altro processo, può darsi che la Germania non voglia estradarlo perché gli dice dobbiamo fargli questo processo qua, quindi ce la dobbiamo vedere. No, io avevo delle domande, volevo chiedere sulle risposte che deve dare l'Ungheria. L'Ungheria può fare delle dichiarazioni a livello statale e o dell'amministrazione penitenziaria e basta, o deve allegare una documentazione che accerti che quello che dicono è vero, diciamo, con un'indagine da parte neutra, diciamo, perché... Io questa era una cosa che stavo pensando, il fatto che l'Unione Europea, il Comitato Helsinki, cioè 200.000 cose diverse dicono che la situazione delle carceri è questa. Loro, se dicono no, assolutamente la situazione delle carceri non è questa, devono anche provarlo. Ma infatti i quesiti sono proprio intesi... risposte anche quelle. Sì, perché i quesiti danno una serie di elementi di fatto che consentirebbero, se soddisfatti, di ritenere abbastanza soddisfatta la rassicurazione. Quindi non sarebbe semplicemente un'affermazione, sarebbe un'affermazione come conclusione di una risposta ad una serie di domande. Li teniamo in queste condizioni, hanno questi diritti, hanno questo e quest'altro. Beh, devono fare un accenno alla normativa che prevede invece, cioè devono rispondere anche basandosi sulle fonti normative che regolano gli istituti penitenziari. Cioè, l'ordinamento penitenziario ungherese, che non conosco. Sì, no, però quello che dico è che loro possono dire no, nel nostro ordinamento penitenziario noi facciamo così, però se poi ci sono svariate fonti che dicono questo però non avviene, poi la vostra stessa legge non la rispettate nelle vostre carceri, o loro portano una documentazione per dire sì sì invece la rispettiamo, oppure si può anche dire questo, l'Ungheria risponde, noi la facciamo così, però poi abbiamo documentazioni della Corte Europea, del Comitato contro la Tortura, che che dicono che in realtà l'Ungheria non rispetta la sua stessa legge. Sono tutte valutazioni discrezionali. Cioè, quindi sì, ovviamente, noi diremo questo e poi alla fine la Corte d'Appello deciderà. Poi avevo anche due domande. Una, riguardo la cosa di Ilaria, se loro portano come elementi probatori il fatto che gli siano stati sequestrati degli oggetti durante l'arresto che vengono considerate armi, perché questa era una cosa che si diceva, il fatto che nel momento dell'arresto una grossa prova della sua colpevolezza fosse che gli era stato trovato qualcosa che erano delle armi addosso. Mm-hmm. Anche perché già nel processo Antifa Host loro hanno usato la cosa del metodo di messa in atto degli attacchi come forte elemento probatorio di conferma del fatto che quella persona avesse commesso quell'attacco. Perché Lina è stata condannata su testimonianze che dicono che c'era una donna, che si è sentita una voce di donna, e testimonianze cose intorno a questo spray peperoncino. Loro hanno costruito tanto il fatto che questa associazione usava lo spray peperoncino, quindi quelli, tutti gli attacchi con lo spray peperoncino erano quelli di questa associazione. E quindi sì, sì, sicuramente anche gli ungheresi fanno dei ragionamenti analoghi, sì. Sì. Sì, sì, sì. E terza domanda, l'Italia potrebbe dire, come fece la Grecia, Gabriele ce lo teniamo e lo processiamo noi? Ma io, allora, credo che ci sia una norma di questo tipo qui all'inizio del codice penale, ma non penso che ci vorrebbe una volontà fortissima a quel punto di aprire un procedimento, andare in diretta esplicita contrapposizione con lo Stato ungherese. È talmente residuale come ipotesi che non so neanche se. Io me lo ponevo come un discorso di dire, nel caso neghiamo Stato italiano, magistratura italiana, l'estradizione per questa persona, stiamo dicendo che ci va bene che questa persona rimanga impunita per dei reati così gravi. Questo era un po' un elemento di criticità che io vedevo, per quanto poi la magistratura ha molti elementi per negare questa estradizione. Io ho pensato che magari questo elemento del se non lo estradiamo vuol dire che stiamo dicendo che ci va bene che rimanga impunito, perché in tal caso nessun processo avverrebbe in Italia, e si è detto che non si sa se partirà il processo in Ungheria oppure no. Una cosa che io individuavo come un po' una difficoltà per loro di giustificare la negazione dell'estradizione. Sì, ma esiste la possibilità di giudicare il cittadino italiano in questo caso? Secondo me no. Commessi all'estero no, solo per determinate categorie, solo per determinate reati. Sì. Ma comunque non credo veramente che sia realistico pensare che l'Italia possa aprire un procedimento. In passato era successo un caso per tre anarchici, Silvia Rossavini, che erano stati accusati di, erano stati fermati in Svizzera. Però Svizzera e Italia è possibile che fossero fatti, commessi un po' qua un po' là, adesso la vicenda non me la ricordo nel dettaglio. No, la vicenda secondo me era legata al fatto che dicevano che erano partiti dall'Italia per Svizzera. Vedi, quindi era reato commesso in Italia. Nel caso in cui parte del reato sia commesso nei due stati, allora anche nel MAE c'è questa regola che lo Stato italiano potrebbe decidere di tenersi il procedimento. In caso diverso, vai. No. Sì, però in realtà non l'accusano di avere commesso il reato associativo, l'accusano di avere commesso le lesioni, ma nell'ambito di un'associazione. Ma all'interno poi... Beh, però ci sarebbe, nel senso, loro ritengono che ci sia una competenza dell'Ungheria anche decidere di questa associazione, perché ha fatto delle azioni anche in Ungheria. E quindi l'associazione ha agito anche in Ungheria. Il reato associativo è contestato, non è contestato non Ilaria. È Ilaria. Non è Ilaria, non è Ilaria, però è contestato all'altro imputato. È contestato. Al tedesco è contestato. Per i fatti commessi in Ungheria, il tedesco risponde di associazione per delinquere. Sì. Questa associazione è quella stessa. È quella stessa tedesca. Che è stato oggetto di giudizio in Germania. Quindi c'è il tribunale, cioè il TM ungherese che giudica su un'associazione tedesca. Su un'associazione che ha agito, che avrebbe agito in Ungheria e anche in Germania. Cioè, non è che il fatto che sia stata giudicata già per altre vicende l'associazione in Germania impedisce di eventualmente per altre eventuali ipotesi di valutarla anche da parte dell'Ungheria. C'è qualche criticità, c'è, insomma. Non ci può essere un rapporto diretto tra gli ungheresi tedeschi e ungheresi, cioè comunque è un tribunale ungherese. Certo, no, ovviamente, però le prove, però attraverso lo strumento della rogatoria, anzi dell'ordine di indagine europeo, si chiama così adesso, le varie procure e polizie giudiziarie dell'Unione Europea possono utilmente collaborare in procedimenti, cioè una relazione, un'informativa proveniente dalla Germania con gli adeguati strumenti può essere utilizzata sparo per un procedimento in Italia, possibile. Abbiamo iniziato puntuali e siamo andati lunghi. Il tedesco ci ha messo un po' del suo. Il tedesco ci ha messo del suo, ma perché lì è il problema della lingua. Non voglio immaginare l'ungherese. Ma senti, l'ultima proprio così. Ma voi poi lavorate con questi avvocati tedeschi anche? Vi sentite? Cioè, noi siamo anche andati in Ungheria a parlare con loro. Cazzo. Sì, e ci torneremo adesso. Bella casina, va bene. Auguri, grazie.